Spossessamento e sfruttamento vanno di pari passo, un aspetto è premessa e garanzia dell'altro. Più si è privati del proprio mondo, più si diventa manovalanza facilmente manovrabile. Al tempo stesso, più si viene sfruttati, dedicando ogni attimo di energia a risolvere i problemi altrui, più si diventa incapaci di pensare ed agire per costruire il proprio mondo. Criticare solo lo sfruttamento è riduttivo quanto è idiota negarlo. L'infelicità umana non scaturisce da un salario troppo basso o dalla mancata proprietà dei mezzi di produzione, ma nemmeno da una noia o alienazione fantasmatica. Viviamo semplicemente in un mondo che non è il nostro e veniamo sfruttati per perpetuarlo. I suoi valori consistono in un lavoro imposto, così come le sue fatiche ordinano un'opinione ai cervelli. Cessare di dare il proprio contributo alla riproduzione dell'esistente significa allora cominciare a dare vita a tutt'altro. L'alienazione prodotta dal capitalismo può contare su oltre 50 anni di progresso, da quando Marcuse scriveva che l'unificazione degli opposti che caratterizza lo stile commerciale e politico è solo uno dei molti modi in cui il discorso e la comunicazione si rendono immuni all'espressione della protesta e del rifiuto. Che nell'esibire le proprie contraddizioni come contrassegno della sua verità, questo universo di discorso si chiuda in sé, escludendo ogni altro discorso che non si svolga nei suoi termini. E che grazie alla capacità di assimilare tutti gli altri termini propri, esso promette di combinare la maggiore tolleranza possibile con la maggiore unità possibile. È ormai un terreno assodato dell'industria più avanzata e della propaganda più funzionale ad essa. Si tratta quindi di mettere sul mercato un prodotto ridotto e semplificato partendo da elementi complessi e diversi, messi assieme grazie a un processo, se non di sintesi, di giustapposizione, resi così digeribili al grande pubblico con una parvenza di pluralità e di superamento delle problematiche che il secolo scorso portavano alla diretta opposizione a questo sistema. La chiusura, anche nel suo ambito linguistico, assorbendo le contraddizioni in sé. Decretando una fine delle differenze reali tra i soggetti sociali, porta anche a una fine delle loro ostilità. Un linguaggio chiuso non dimostra e non spiega, bensì comunica decisioni, dettati, comandi, non fa che annunciare le evidenze e le constatazioni. È un linguaggio che non si presta per nulla ad un discorso. È meramente operativo, sopprime la storia, le questioni politiche. Ma storicamente sappiamo già a cosa possa condurre l'indirizzamento totale di una intera società a mero oggetto da organizzare, che non metta in discussione il potere costituito, in cui gli esseri umani possono essere resi automi, funzionari ed efficienti. fino alla servitù di procedure genocide. Quello che oggi la razionalità tecnologica continua a sfruttare è la promozione di una coscienza felice che non sa che farsene del conflitto, lo esclude. Gli elementi di autonomia, di scoperta, di dimostrazione e critica recedono dinanzi alla designazione, all'asserzione e all'imitazione. Nel 1999 si pubblicava in Francia l'opera di Luc Bolzanski ed Yves Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, un tomo di oltre 800 pagine che esaminava il rapporto intercorso nella storia fra capitalismo e critica del capitalismo, che i due sociologi suddividevano goffamente in critica sociale nata e cresciuta nella sinistra rivoluzionaria ed alimentata dalle letture delle dispense di partito ed in critica artistica, partorita dalla Bohème e salita alla ribalta solo col maggio del 68, desiderosa di liberazione e di una vita veramente autentica, osservando come il progresso del primo sia avvenuto integrando elementi della seconda. Ricco di promesse illusorie, ma povero di contenuti morali, per imporsi il capitalismo ha bisogno di uno spirito, nel senso di una ideologia che lo giustifichi. All'essere umano non basta infatti arricchirsi perché è utile e comodo. Bisogna anche pensare che sia giusto e bello. Solo in questo modo il capitalismo può diventare invincibile. oggigiorno, a una critica che sosteneva valori quali l'autonomia e la libertà, il capitalismo ha risposto introducendo la mobilità sul mercato del lavoro, intesa come emancipazione, che permette di diventare ciò che si vuole e quando si vuole, cambio di attività, rottura con ogni legame e appartenenza, visti come fonte di rigidità. Allo stesso modo, ad una critica che notava come la produzione industriale abbia portato ad una massificazione degli esseri umani e del pensiero, il capitalismo ha risposto con una mercificazione sfrenata caratterizzata da una diversificazione di offerte e prodotti. Comparando le mutazioni avvenute nel corso degli anni in campo amministrativo, gli autori osservavano che se mezzo secolo fa si sosteneva una struttura rigida in grado di dare una sicurezza all'avvenire, oggi si preferisce puntare sul rischio e sulla flessibilità. Il nuovo spirito del capitalismo, preso congedo dal padrone arcigno, si incarna oggi in una nuova figura, l'uomo connessionista, l'uomo leggero, un manager che non comanda affatto come il padrone. Si impone per il suo carisma, motiva i propri collaboratori senza abbaiar loro contro, sollecitandoli ad essere creativi, affatto ripetitivi come in una catena di montaggio. Davanti a questo nuovo spirito di capitalismo che insegue il profitto sbandierando i valori della creatività, dell'autonomia, dell'avventura, della libertà, i suoi critici si ritrovano muti e disarmati, privi degli antichi punti di riferimento. Possono solo arrendersi davanti alla omologia morfologica fra i nuovi movimenti di protesta e le forme di capitalismo attuate nel corso degli ultimi 20 anni. Due accademici pervengono ad una conclusione assai più interessata che interessante, quella per cui la critica possiederebbe un'ambiguità intrinseca che porta sempre a condividere qualcosa con ciò che cerca di criticare. Ma poiché è la critica artistica ad essere scaturita dal maggio 68, è soprattutto sua la responsabilità di aver insegnato al capitalismo a vivere senza tempi morti e godere senza ostacoli. Quindi gli avversari del capitalismo farebbero meglio a tornare a battersi per una politica pubblica responsabile e la costituzione di nuovi diritti. Queste conclusioni furono controbattute già un anno dopo, nel 2000, da Annie Lebrun. Contro la tirannia della realtà e il suo sistema di cretinizzazione da cui l'epoca trae la sua forza consensuale, cita quell'opera di Boltanski, Chiapello, per andare a ricordare come il recupero della critica sociale da parte del dominio fosse già stato descritto nelle sue caratteristiche, in particolare proprio nell'Uomo a una dimensione di Marcuse. Nel lontano 1964. Il processo di riassorbimento dell'arte stessa come merce era già stato denunciato ampiamente e affrontato tanto dagli accademici quanto dai ribelli che portarono al 68. Annie Lebrun, D'Utrop de Realité. Insisto, non senza misurare quanto sembrerà sconveniente se non desueto ricordare la carica di incompatibilità, un tempo indissociabile dal termine contraddizione, prima che questo diventasse in pochi anni sinonimo di giustapposizione. Ma mi pare essenziale attirare l'attenzione sull'inesorabile modo in cui il processo di riduzione del senso, determinato dalla razionalità tecnologica, avrà a poco portato un cambiamento di senso, fino ad attestare un modo che, lungi dall'essere minacciato da questa nuova forma di contraddizione, cerca solo di farla proliferare, sia di pervenire ogni scontro che per instaurare sotto una parvenza di pluralismo la più allarmante uniformità. Gunther Anders faceva notare come questa società definisca introversi coloro che vogliono proteggere la propria individualità da una modernità sempre più intrusiva ed estroversi coloro che, non avendo nulla da proteggere, essendo vuoti di pensieri e di valori, accettano di buon grado il consumo di qualsiasi merce e feticcio. Oggi quegli individui tacciati di introversia appaiono anche rancorosi nel loro rifiuto di imparare come si sta al mondo. L'essere umano in carne ed ossa non deve avere più alcuna individualità, non deve avere idee, gusti, attitudini, desideri, valori propri che lo contraddistinguano e lo rendano unico e singolare. No, dalla figura dell'unico si deve passare a quella dell'essere qualunque, il quale sarebbe solo la sede di un gioco conflittuale di forze le cui successive configurazioni designano null'altro che dei provvisori equilibri. Uno Zelig multiforme modellato e plasmato dalla situazione esterna. può fare a meno di pensare a quanto scriveva nel lontano 1947 George Hanein: l'uomo è tutto quello che si vuole, tranne qualunque. Uno dei tristi successi della società è di averlo convinto ad essere qualunque, e con ciò indotto a diventarlo. Ogni burocrazia ha bisogno che gli uomini si assomiglino. A furia di scrivere segni particolari in nessuno, il burocrate persuade la sua vittima non solo che non vi è nulla in se stessa che la contraddistingua, ma innanzitutto che non deve contraddistinguersi. Quelle che ho riportato finora erano digressioni tratte da un opuscolo ai clienti, che in realtà parla di un argomento su cui tornerei alla fine di questo podcast, ma era questa serie di polemiche in forma anche di citazioni letterarie che mi interessava riprendere rispetto all'espropriazione culturale che il capitalismo ha promosso a metà del secolo scorso di ciò che poteva essere fecondo in senso rivoluzionario, ma che è stato gettato in pasto al mercato per dare spinta propulsiva al carattere competitivo di questo, anche grazie, penso, al recupero di tecniche della propaganda politica negli slogan pubblicitari, tecniche che sono poi diventate prerogativa del terzo settore e funzionale anche agli altri. Si basa su un uso del linguaggio di immediata lettura che riconduceva, e lo fa tuttora, la cittadinanza ad un mondo di soddisfazioni massificate, ma al tempo stesso sempre più personalizzabili. Su questo tema, sempre tramite frammento, a me è venuto invece in mente Kayati Mustafa, che aveva altrettanto ben compreso quanto il linguaggio sia via via soggiogato, messo al servizio dell'autorità dominante, ma vedeva altresì possibilità ampie di resistenza di questo, soprattutto grazie a una rilettura poetica della comunicazione e della vita stessa. Prenderei quindi alcune sue riflessioni pubblicate nel gennaio 1963, All the King's Men, che sono raccolte insieme alle parole prigioniere in un opuscolo della Nautilus dal titolo esplicativo La critica del linguaggio come linguaggio della critica. Il problema del linguaggio è al centro di tutte le lotte per l'abolizione o il mantenimento dell'alienazione presente, inseparabile dall'insieme del terreno di queste lotte. Viviamo nel linguaggio come nell'aria viziata. Contrariamente a ciò che pensano le persone di spirito, le parole non giocano, non fanno l'amore, come credeva Breton, salvo che in sogno. Le parole lavorano, per conto dell'organizzazione dominante della vita. Ciò nonostante, non sono robotizzate. Gli informazionisti si sono messi a combattere tutte le ridondanze della libertà per trasmettere semplicemente degli ordini. I pensatori dell'automatizzazione mirano esplicitamente ad un pensiero teorico automatico attraverso la fissazione ed eliminazione delle variabili nella vita come nel linguaggio. A dispetto dei teorici dell'informazione, le parole non sono di per sé stesse informazioniste. Alcune forze si manifestano in esse o possono scombinare i calcoli. Le parole coesistono con il potere in un rapporto analogo a quello che i proletari, nel senso sia classico quanto moderno del termine, possono intrattenere con il potere. Usate quasi continuamente, utilizzate a tempo pieno, in tutti i sensi e in tutti i non sensi, rimangono per qualche aspetto radicalmente estranee. Il potere solamente dà loro identità, peraltro falsa, impone loro un lascia passare, determina il loro posto nella produzione. Ma comprendiamo anche il fenomeno di non sottomissione delle parole, la loro fuga, la loro resistenza aperta, che si manifesta in tutta la scrittura moderna, da Baudelaire fino ai dadaisti e a Joyce. Sotto il controllo del potere, il linguaggio designa sempre altro dal vissuto autentico. È precisamente in questo punto che risiede la possibilità di una contestazione completa. La confusione è divenuta tale nell'organizzazione del linguaggio che la comunicazione imposta dal potere si svela come un'impostura e un imbroglio. Anche su questo terreno si manifestano alcune resistenze ed è legittimo considerare la musica elettronica come un tentativo evidentemente ambiguo e limitato di rovesciare il rapporto di dominio, ritornando le macchine a vantaggio del linguaggio. Ma l'opposizione è ben più generale, ben più radicale. Richiama ad una comunicazione che distrugge qualsiasi potere separato. Denuncia ogni comunicazione unilaterale. Dove c'è quella comunicazione, non c'è lo Stato. Ritrovare rinnovare la poesia può confondersi con il reinventare la rivoluzione, come dimostrano alcune fasi della rivoluzione messicana, cubana e congolese. Andrebbe capita in quanto comunicazione immediata nel reale e modificazione reale di questo reale. Non è altro che linguaggio liberato, linguaggio che riacquista la propria ricchezza. Ricopre insieme tutte le parole, la musica, la pittura, la matematica, le grida, i gesti, i fatti, per inaugurare dappertutto una comunicazione diretta, che non abbia più da ricorrere alla rete di comunicazione dell'avversario, cioè al linguaggio del potere, e possa così trasformare il mondo secondo il suo desiderio. Non si tratta di mettere la poesia al servizio della rivoluzione, ma piuttosto di mettere la rivoluzione al servizio della poesia. Solo così la rivoluzione può non tradire il proprio progetto. La poesia è sempre di più, nettamente, in quanto spazio vuoto, l'antimateria della società dei consumi, perché non è materia e non è consumabile, secondo criteri moderni. Non è niente quando è citata, non può essere che rimessa in gioco. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Senza dubbio, per la diversificazione ad oltranza delle forme lessicali, per l'estensione e la ricchezza del vocabolario, una volta assegnato ai situazionisti il premio letterario Maggio 68, bisognerebbe esaminare, oltre allo stile con cui espressero le loro idee, anche il contenuto. Chi si fosse preso la briga di scorrere la montagna di volantini prodotti in quei giorni dal movimento nel suo insieme, avrà notato come, al di là dello stile, al di là dei richiami elettristi, gli interventi situazionisti non si siano contraddistinti da quelli di molti altri gruppi allora attivi. Basterebbe leggere i testi diffusi dal Comitato d'Azione Lavoratori Studenti Censier, che era ancora legato alla vecchia retorica operaista, ma ha dimostrato di avere una capacità di collegamento e coordinamento all'interno delle fabbriche occupate indiscutibilmente superiore a quella del Comitato per il mantenimento delle occupazioni. Fra i rivoluzionari più radicali, tutti indicarono nell'abolizione della società di classe lo scopo ultimo del movimento. Tutti denunciarono il ruolo apertamente controrivoluzionario di stalinisti e dell'evoluzione del sindacalismo e tutti si resero conto verso la fine di maggio dell'impasse in cui si stava arenando il movimento e ne mostrarono alcune possibili prospettive, ma si accontentarono più che altro di denunciare la gravità della situazione. È questo in effetti l'aspetto che più colpisce. Il maggio 68 sembra essere stato una rivendicazione d'essere che in assenza di una rottura sociale fattiva si è manifestata più come espressione che come azione. Molti teorizzarono il punto di non ritorno, ma fu come se nessuno osasse oltrepassare quella soglia. Di fronte alla forza dei contestatori, lo Stato si era rivelato impotente, ma il movimento purtroppo ripeté il medesimo errore della Comune del 1871. Anche allora, chi si era ritrovato inaspettatamente con Parigi in pugno, perse in poche ore tutti i vantaggi conquistati il mattino. Capitò lo stesso agli insorti del maggio 68, troppo soddisfatti della libertà acquisita e persuasi com'erano che la trasformazione radicale della società fosse realizzabile senza la distruzione dello Stato. Viene del tono compiacendosi del fatto che per la prima volta in Francia si era ignorato lo Stato. Doveva essere questa la prima critica in atto del giacobinismo che per sì lungo tempo ha costituito l'incubo dei movimenti rivoluzionari francesi, compresa la Comune. Deludendo le aspettative di tutti gli ideologi, consigliaristi, situazionisti compresi, la stragrande maggioranza degli 11 milioni di lavoratori francesi che nel maggio del 68 entrarono in sciopero non occuparono affatto le loro fabbriche, ma le disertarono. Gli appelli lanciati verso la fine di maggio dai rivoluzionari, che invitavano a rimettere in moto l'industria a favore del movimento, rimasero giustamente inascoltati. Non erano mica rivoluzionari a dover lavorare in fabbrica, Loro occupavano antichi palazzi carichi d'atmosfera e trascorrevano il tempo deliberando. Ma a differenza degli intellettuali che pretendono di educare alla rivoluzione e che pensano che il rifiuto del lavoro consista nel far sgobbare gli altri, i lavoratori francesi sapevano bene di non avere alcun interesse ad occupare volontariamente lo sceno angolo in cui il capitalismo li aveva parcheggiati. Se è vero che chi sta in basso non ha bisogno di chi sta in alto, perché può benissimo auto-organizzarsi da solo, è anche vero che nel mondo creato da chi sta in alto, quelli che stanno in basso non hanno nulla di proprio da organizzare. Un movimento sociale radicale non può quindi fare a meno della sua parte distruttiva. Il sovvertimento dell'ordine sociale non presuppone solamente la soppressione della minoranza dominante, ma anche la distruzione del mondo da questa creato. Necessità della distruzione, quindi, non come omaggio ad una tradizione romantica, non come riesumazione di un fantasma ottocentesco, non come soluzione ad ogni problema, bensì come condizione preliminare per dare avvio concretamente all'autodeterminazione della propria esistenza. Si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Sviluppo rivoluzionario nei paesi industrializzati può essere datato dall'insurrezione operaia del 1953 a Berlino Est, cui seguì la rivoluzione ungherese dell'ottobre 1956, senza contare che alla fine del 1964 lo scatenamento dell'agitazione degli studenti di Berkeley stava mettendo in discussione l'organizzazione della vita nel più sviluppato paese capitalistico, dando via ad un movimento che si sarebbe esteso anche in Europa, soprattutto in Germania, in Italia e in Francia. Questo era un contributo dell'aprile 2008 di Macete, Zinea Periodica. Penso che non ci sia interesse nel criticare le rivoluzioni che ci hanno lasciato in realtà parecchi strumenti anche pratici per affrontare l'oggi, se non per riuscire a capire in che modalità classi e strutture sociali avversarie si siano potute in poco tempo appropriare di questi strumenti, per quanto solo in parte. Così nella critica del quotidiano, della mercificazione e reificazione dell'esistenza, oltre che del lavoro coatto, il situazionismo consisteva anche nel contrasto alla burocratizzazione di quella che si è costituita come dirigenza della rivoluzione proletaria. E avevano pienamente inteso che non si trattava di dover meramente correggere gli errori del comunismo di partito, ma che era dai partiti stessi e quindi dall'apparato statale che venivano instaurati e garantiti processi di alienazione, così come di spettacolarizzazione, analoghi a quelli subiti dagli operai nella società capitalista. Oh Presidente Johnson, forse tu non lo sai, stai assassinando fratelli, con te più non ci hai. Perché proprio per l'esistenza di quegli apparati, forme di oppressione avevano potuto espandersi, tanto che si parlava di proletarizzazione della società intera, oltre la sola classe operaia. I don't want to be a freedom rider, oh no no Lord, I don't want to be a freedom rider, oh no no Lord. Non voglio finire a fare lo scrittore di canti per la libertà, questo cantava Woody, perché Woody la protesta faceva sul serio. Andavamo a dimostrare per le strade più o meno in 25. Poi arrivavano i giornali dall'Italia. Grande protesta per le vie americane, la nuova sinistra. 25 eravamo e davamo fastidio. Quelli a spasso in 30.000 e gente incanalata nel grande sistema americano. Country of Freedom! E da lì quindi le contestazioni significavano il rifiuto dei valori di produzione ma anche di consumo, così come la disaffezione nei confronti appunto delle forme di rappresentanza politica. Avevano quindi chiaro che i comparti istituzionali non avrebbero mai assolto ad una abolizione dello sfruttamento capitalistico, neppure nelle frange sindacali, che semmai perpetravano l'affermazione del proprio potere sul proletariato. L'allerta contro l'accrescimento del potere burocratico non era comunque cosa nuova. tra le critiche mosse precedentemente agli anni 60 nei confronti della strutturazione partitica c'erano nella stessa Francia quelle di Simone Weil, per esempio. Già nel 1933, nell'articolo Prospettive, aveva infatti posto il problema che la tendenza dietro alle crisi dell'industrializzazione non fosse affatto la dittatura proletaria, bensì l'instaurazione del ruolo direzionale dei tecnici dell'amministrazione, la cui ingombranza si rilevava anche nel fatto che andassero assorbendo una proporzione sempre più lauta dei profitti d'impresa. Quanto alla specializzazione, Simone Weil riteneva che essa stessa trasformasse gli uomini in ingranaggi, seppur in altro modo rispetto al lavoro meccanico. Infatti scriveva che in quasi tutti i settori l'individuo, rinchiuso com'è nei limiti di una competenza ristretta, si trova prigioniero di un insieme che lo supera, non può da solo regolare tutta la propria attività. In tale situazione, quindi, non c'è che una funzione che assurga di importanza fondamentale, quella che consiste esclusivamente nel coordinare le attività di sottoposti. La fatalità di questa burocratizzazione, oltre ad essersi spinta alle estreme conseguenze nel regime hitleriano, veniva ancor prima nello stalinismo e all'interno dei movimenti operai stessi. La lotta spontanea si è sempre dimostrata impotente e l'azione organizzata secerne in qualche modo automaticamente un apparato di direzione che prima o poi finisce col diventare oppressivo. Avvertiva che qualsiasi tipologia di gestione classista sarebbe stata pericolosa. Quello che era doloroso era che non si riusciva più a concepire, neppure come ideale, un altro tipo di organizzazione. Ogni potenza esclusiva e non controllata diviene oppressiva. Ogni gruppo umano che esercita un potere lo esercita non già in modo da rendere felici coloro che vi sono sottoposti, ma in maniera da accrescere tale potere. È una questione di vita o di morte per quello stesso rapporto di dominio. Del resto, se la produzione nelle mani dei capitalisti ha per scopo il gioco della concorrenza, nelle mani dei tecnici organizzati in una burocrazia di Stato avrà necessariamente per scopo la preparazione della guerra. Difatti, come il capitalista sviluppa il suo potere mediante l'estensione dell'impresa, una burocrazia lo afferma all'esterno della collettività che già gestisce. Così, al posto dell'impresa, è la nazione a diventare il fine supremo al quale l'individuo viene sacrificato. In astratto è sacrificato alla propria società o nazione. In pratica, invece, è sacrificato alla classe che parla in nome di quella società. Hasta il triunfo total della classe trabajadora! Hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. E i partiti poi sono per loro natura forme di criptotirannia. Competono per emergere l'uno sull'altro. Un grande lascito di Marx è che nelle società, così come nella natura, niente si effettua senza la mediazione delle trasformazioni materiali. Desiderare non è niente, bisogna conoscere le condizioni materiali che determinano le nostre possibilità di azione. Il materialismo storico, così spesso mal compreso, significa che le istituzioni sono determinate dal meccanismo effettivo dei rapporti tra gli uomini, meccanismo che dipende esso stesso dalla forma che vanno assumendo momento per momento i rapporti tra l'uomo e la natura. Per cui la struttura sociale non può essere modificata che indirettamente. Da questo pensiero concludeva la fede in una rivoluzione diretta contro l'oppressione, che potesse modificare ad un tratto e radicalmente le cose, fosse logicamente ma anche storicamente inconcepibile. Non vi è mai vera rottura di continuità. Nell'impero romano i barbari occupavano già da tempo i posti importanti nella gerarchia sociale. L'esercito si frantumava in bande guidate da avventurieri, il colonnato sostituiva poco a poco la schiavitù e tutto ciò molto prima delle grandi invasioni. Allo stesso modo, la borghesia francese occupava una posizione preeminente su quella della nobiltà già molto prima del 1789. Rispetto al progresso, riteneva che nel campo dell'invenzione potesse essere illimitato, ma vi sarebbe stato sicuramente un limite alle economie sottese a quel progresso, sia che si tratti della razionalizzazione dello spazio, quindi della concentrazione dell'industria, di una crescente divisione del lavoro, della coordinazione in aumento, sia che si tratti della razionalizzazione del tempo, quindi un crescente uso delle macchine, che non sono altro che lavoro già compiuto. Da parecchi anni ormai l'ingrandimento delle imprese non si accompagna a una diminuzione, ma ad un accrescimento delle spese generali. L'estensione degli scambi, che in passato ha avuto una parte fondamentale come fattore di progresso economico, ha cominciato anch'essa a causare più spese di quante non ne eviti, sia perché le merci rimangono per lungo tempo improduttive, sia perché il personale addetto agli scambi si accresce anch'esso con un ritmo accelerato, sia infine perché i trasporti consumano un'energia accresciuta, senza tregua, in ragione delle innovazioni destinate ad aumentare la velocità. La sua lettura polemica nei confronti di Marx forse era dovuta proprio al fatto che vedesse altre cause dell'oppressione oltre allo sfruttamento. In particolare riteneva che il fenomeno della guerra non potesse essere interamente ricondotto al fattore produttivo, che sì, Marx aveva esaminato l'effetto della produzione sulla guerra, ma non in rapporto inverso. Si può dominare sia con la soggezione economica che con le armi. E individuava il germe principale dell'oppressione in una lotta per il potere più generale che attraversava più strati della società. La corsa al potere che purtroppo è sempre accompagnata dall'esistenza di privilegi. Dal fatto che alcune forze siano monopolio di pochi e che non sono certo gli uomini a stabilire i limiti del proprio potere, ma gli stessi principi della materia. Si vorrebbe obiettare che la tecnica non è che uno strumento, che la si può utilizzare come si vuole. Invece la tecnica determina un modo di lavorazione, una distribuzione dei poteri. Le macchine obbediscono, ma anche noi obbediamo a loro. Occorrerebbe quindi agire sulla tecnica stessa, sul modo di concepire le macchine, sul regime stesso del lavoro. Bisognerebbe immaginare un sistema di effettiva decentralizzazione dell'industria. Permettere ai lavoratori di essere indipendenti e di esercitare il proprio pensiero nel lavoro che fanno. Era altresì convinta, come dicevo, che questi cambiamenti non possono avvenire che lentamente e in modo poco vistoso. Intorno al 1937 poi scriveva che la rivoluzione politica sì è vana se non vi è rivoluzione economica, ma non è men vero che quest'ultima è resa inutile dalla mancanza di una rivoluzione politica. E se non è concessa la libertà di pensiero, è impossibile che la società abbia sufficiente parte in gioco, poiché solo il governo può parlare ed è improbabile che non presenti come vero ciò che gli è solo utile. Ora, laddove le libertà restano appannaggio di classe, i diritti delle classi rimanenti non vengono rispettati, perché il pensiero a conferire dignità al lavoratore ed è la sua dignità a poter difendere in larga misura la sua libertà. Non puoi scegliere o pensare, è inutile. Resta solo l'illusione di essere ancora persone. Io credo di capire il guaio dov'è questa gabbia maledetta, indistruttibile, perfetta. Su qualche cosa sta la proprietà. Sono 2 mesi che ne sono uscita e senza dubbi adesso io penso così. Se ci avessi 100 figli, tutti quanti belli e forti, gli direi vi prego. padrone in veste nera, con la mano sopra il cuore, mi fa tanto dispiacere, ma io vi debbo licenziare. O padrone, non lo fare, siamo in pochi ma a lottare, e per farla scomparire la maledetta proprietà. Il padrone in veste nera, con la mano sopra il cuore, state attenti a lavorare, che io vi posso rovinare. Che farai allora, Crumiro, per i soldi del padrone? Tu rimani a guardare, che da solo ti sei rovinare. Siamo in pochi ma a lottare, e per farla scomparire la maledetta proprietà, la maledetta proprietà, la maledetta proprietà. Alla ricerca di risorse oscure. Sappiamo tutti che la disoccupazione non sarà mai soppressa. Gli affari vanno male, si licenzia. Gli affari vanno bene, si investe nell'automazione e si licenzia. Una volta ci volevano i lavoratori perché ci fosse lavoro, oggi ci vuole lavoro affinché ci siano lavoratori. Ma nessuno sa che farci, le macchine lavorano più in fretta e costano meno. L'automazione è sempre stata il sogno dell'umanità. Se già 2300 anni fa Aristotele affermava: se ogni utensile potesse eseguire senza comando, da solo, le sue operazioni, se per esempio le spole dei tessitori tessessero da sole, il capo bottega non avrebbe più bisogno di aiuti, né il padrone di schiavi. Oggi questo sogno si è realizzato, ma è diventato un incubo per tutti, perché i rapporti sociali non sono progrediti come la tecnica, semmai sono regrediti grazie alla tecnica. Inoltre, laddove il lavoro umano è ancora indispensabile, lo si delocalizza verso paesi con salari più bassi, oppure si importano immigrati sottopagati per farlo, in una spirale discendente che solo la restaurazione della schiavitù potrebbe fermare. Tutti lo sanno, ma nessuno può dirlo. Ufficialmente è sempre la lotta contro la disoccupazione a tenere banco. Allora, sono qui per quell'impiego. Ha telefonato? Già, voglio vendere vestiti. Vestiti da donna. Non lo so, ha già avuto esperienze, è pratico. Di che? Di abiti femminili. Che cazzo me ne facevo, me li infilavo. Volevo dire, ha già lavorato in negozi al dettaglio. Eh? Cioè, ci sa fare. Vende. Se già vendessi vestiti, che ci sarei venuto a fare qui? Non mi pare il modo giusto per cominciare un rapporto professionale. Lavoro se lo tiene. Non mi importa quanto è disposto a pagarmi, perché io ho una dignità. E vaffanculo ci tengo! Disoccupazione è una brutta parola, una idea negativa, il rovescio di una medaglia al lavoro. Un disoccupato è solo un lavoratore senza lavoro, il che non dice nulla della personalità, come viaggiatore, come cercatore, come essere che respira. In pubblico si ha diritto soltanto a parlare di mancanza di lavoro, solo in privato ci si può permettere di dire quello che si ha nel cuore. Sono stato appena licenziato, bella, finalmente potrò fare festa tutte le sere, mangiare qualcos'altro dai cibi precotti, avere tempo per gli amici e i miei affetti. Per abolire la separazione fra virtù private e pubblici vizi ci viene detto che non è il momento, che ciò sembrerebbe una provocazione che farebbe il gioco dei borghesi. Decine di anni fa i lavoratori potevano mettere il loro lavoro e il lavoro stesso in discussione. Oggi devono ritenersi felici per la sola ragione che non sono vittime della disoccupazione. Quando l'etica del lavoro è perduta, la paura della disoccupazione resta la più solida frusta per accrescere il servilismo. Le imprese tendono ad utilizzare sempre più questo sentimento di insicurezza. I disoccupati devono ritenersi infelici in quanto tali. Yeah. è solo una questione di sopravvivenza. Il calzolaio e l'ebanista erano fieri della loro arte e gli operai dei cantieri navali trattenevano una lacrima quando vedevano partire lontano le navi che avevano costruito. Ma questo sentimento di valere qualcosa è scomparso nel 95% dei jobs. Il settore dei servizi impiega solo domestici e appendici informatiche che non hanno ragione alcuna di essere fieri. Dal vigilante al tecnico di sistemi d'allarme, un branco di cani da guardia sono pagati solo per sorvegliare che venga retribuito ciò che senza di loro potrebbe essere gratuito. Anche un medico non è che un rappresentante di commercio delle multinazionali farmaceutiche. Chi può ancora dirsi utile agli altri? La domanda non è più a cosa serve, bensì quanto fa guadagnare. Il solo obiettivo di ogni lavoro particolare è aumentare i profitti d'impresa, così come il solo rapporto del lavoratore con il suo lavoro è il salario che percepirà. La disoccupazione esiste proprio perché è il denaro e non la cosiddetta utilità sociale ad essere lo scopo ultimo del lavoro. Il pieno impiego è la crisi economica, la disoccupazione è la salute del mercato. Cosa accade quando un'impresa annuncia una carrellata di licenziamenti? Gli azionisti saltano di gioia, gli speculatori applaudono per la strategia di risanamento, le azioni si impennano ed il prossimo bilancio testimonierà i benefici così generati. Tanto che si può ben dire che i disoccupati creano più profitto dei loro ex colleghi. È infelice? Non è perché è senza lavoro, ma perché è senza denaro. Quindi non diciamo più ricerca attiva di un impiego, ma ricerca attiva di denaro. Le cose saranno più chiare. Fuori dal privilegio di essere sfruttati sul posto di lavoro, bisogna colmare questa mancanza andando alla ricerca di risorse oscure. Ciò significa che non facciamo propaganda per qualcosa che è già là, che bisogna solo afferrare per poterlo gustare. I momenti rubati da all'obbligo salariale sono solo fugaci evocazioni di un al di là del mercato. Se il disoccupato è infelice è anche perché il lavoro è il solo valore sociale che conosca. Non ha più nulla da fare, si annoia, non conosce più nessuno, poiché il lavoro è spesso l'unico legame sociale disponibile. La cosa, del resto, vale anche per i pensionati. È ovvio che la causa di una simile miseria esistenziale è da ricercare nel lavoro, non nella disoccupazione in sé. Tutti i disoccupati dispongono in ogni caso di una cosa inestimabile, il tempo. Ecco cosa potrebbe costituire una possibilità storica, possibilità di condurre una vita piena di significato e di gioia, di ragione e di passione. È possibile definire il nostro scopo una riconquista del tempo. Chi non lavora è quindi tutto tranne che inattivo, mentre la popolazione che trova occupazione può solo obbedire agli ordini dei suoi superiori nella gerarchia sociale. Ed è proprio perché i disoccupati volontari sono pieni di cose da fare, scoprire, inventare, sognare, che non hanno il tempo di lavorare. Come diceva un fuorilegge reso celebre dalle sue avventure, non volevo che la mia vita fosse regolata in partenza o decisa da altri. Volevo vivere senza orari, ritenendo che la prima schiavitù dell'uomo è comparsa nel momento in cui si è messo a calcolare il tempo. Io volevo avere il tempo di vivere e l'unico modo per riuscirci era non esserne schiavo. Ero conscio dell'irrazionalità della mia teoria, inapplicabile nella società, ma che cos'era poi questa società con i suoi bei principi e le sue leggi? C'è chi ribatterà che il disoccupato è senza lavoro solo nel senso attuale della parola lavoro, cioè lavoro salariato. Anche parecchi sovversivi non possono organizzare seminari anticapitalisti senza portare a dibattiti produttivi dentro a gruppi di lavoro. Miserabili parole. Ma non è da oggi che la parola lavoro è una parola segnata dall'infelicità. Arbeit, tedesco, è probabilmente formata su un verbo germanico scomparso, il cui significato era essere orfano, bambino utilizzato per un rude compito corporale, verbo derivato dall'indoeuropeo orbos, orfano. Fino all'alto tedesco moderno, Arbeit significa pena, tormento, attività indegna. In questo senso, disoccupato felice è perciò un pleonasmo. Anche il latino labor significa pena, fatica. Nelle lingue romane la cosa è ancora più chiara, poiché travail, trabajo, travaglio deriva dal latino tripalium, strumento di tortura a tre punte, che era utilizzato contro gli schiavi. Se la Bibbia, con la sua formula «chi non lavora non ha il diritto di mangiare», getta le basi del ricatto economico, Lutero ha promosso da parte sua il lavoro come valore spirituale, predestinazione dell'uomo nel mondo. L'uomo è nato per lavorare come l'uccello per volare. Archimedes, come il che mide los arcanos, il che mide lo arcaico. Che dijo? Dame un punto di appoggio e una palanca, voy a mover el mundo. La palanca. Ci potremmo sentir rispondere che questa disputa di parole è senza importanza, ma il fatto di confondere bevanda con Coca-Cola, cultura con Umberto Eco, attività con lavoro, non può restare senza gravi conseguenze. Non appena è questione di lavoro o di disoccupazione, si fanno avanti le categorie morali e la tendenza va accentuandosi. Basta aprire un giornale per rendersene conto. Una concezione del mondo è prevalsa su un'altra. Invece di considerare la povertà come prodotta da cause economiche, la nuova scuola di pensiero che domina attualmente vede nella povertà il risultato di un comportamento morale cattivo, come ai tempi in cui i curati vedevano in pericolo il loro monopolio sulle anime. La morale è qui un tentativo di colmare la crescente incrinatura fra la realtà e la sua immagine ideologica. Chi dice al disoccupato «tu hai peccato» si aspetta da questi che faccia penitenza o che si giustifichi di qualche sua virtù. Nei due casi avrà riconosciuto l'esistenza del peccato. Il potere, te lo arrancaron. E luego tu fuerza, huérfana viuda, no? Fue doblegada para dejar de ser fuerza de voluntad a pasar a ser fuerza laboral. Eso. È chiaro che Paul Lafargue, autore del Diritto alla pigrizia, rimane un ispiratore. Eppure, noi non facciamo nostra la rivendicazione di un diritto all'ozio. L'ozio è solo il contrario dell'assiduità. Laddove il lavoro non è riconosciuto, nemmeno l'ozio può esserlo. Niente vizi senza virtù, e viceversa. Dall'epoca di Lafargue è diventato chiaro che il tempo libero, accordato ai lavoratori, è spesso e volentieri ancora più noioso del lavoro stesso. Chi vorrebbe vivere di televisione e giochi interpassivi? La questione quindi non è semplicemente, come poteva credere ancora Lafargue, ridurre il tempo di lavoro per aumentare il tempo libero. Ciò detto, siamo solidali con quei lavoratori spagnoli a cui si voleva proibire la siesta con il pretesto di doversi adattare al mercato europeo, i quali hanno risposto che al contrario era l'Unione Europea a dover adottare l'euro siesta. Sia chiaro, non amiamo i partigiani della divisione del tempo di lavoro, per i quali tutto andrebbe per il meglio se ciascuno lavorasse anche solo 5, 3 o 2 ore al giorno. Che cos'è questo spezzettamento? Guardo forse quanto tempo ci metto per preparare un pasto per i miei amici? Calcolo il tempo che trascorro a scrivere questa stronzata di testo? Si conta il tempo quando si ama. Ma non per questo il non lavoro rappresenta una nuova utopia. Se l'utopista deve predisporre al millimetro i piani di una costruzione ritenuta ideale e poi aspettare che il mondo vada a confluire in questo modello. Chi non lavora, casomai, mette assieme e sperimenta a partire dai luoghi e dagli oggetti che sono a portata di mano. Non costruisce un sistema, ma cerca tutte le occasioni e possibilità per migliorare la propria vita. Si tratta o di guadagnare un riconoscimento sociale con il conseguente finanziamento senza condizioni, oppure di sovvertire il sistema per mezzo di azioni illegali. Non cadiamo in facili conclusioni, nei vari tentativi di fare il proprio bene c'è anche chi sceglie di ricorrere a vie legali, sfruttando il sistema di finanziamenti pubblici. Del resto, i crimini di una volta sono i diritti di oggi. Basti pensare al diritto allo sciopero, ma possono sempre ridiventare crimini. Eso. Y no te estoy diciendo a vos, ¿eh? Aún si eres un esbirro o un fan del 1%, date vuelta sobre ti mismo 180 grados y volveles el culo y olvídate de eso. Y ponete a resguardo porque la escisión está ocurriendo. Está ocurriendo. Soprattutto non si tratta di cercare o rifiutare a priori un riconoscimento sociale. Esistono in questo momento diversi movimenti e iniziative contro le misure di austerità, contro la disoccupazione, contro il neoliberismo, eccetera. Ma la questione è: per cosa ci si deve pronunciare? In ogni caso, non è per lo Stato provvidenza, né il tempo pieno di una volta. Tuttavia, potrebbe accadere anche di peggio. Un'altra parola compromessa dalla propaganda è quella di esclusione. I senza lavoro vengono esclusi dalla società, mentre le anime belle ne reclamano la reintegrazione. Esclusi da cosa esattamente? Un umanitario dell'UNESCO ha dato una risposta inequivoca ad un summit sociale tenutosi a Copenaghen. Il primo passo dell'integrazione sociale consiste nel farsi sfruttare. Grazie per l'invito. 3 secoli fa, gli esotici alzavano gli occhi pieni di invidia verso il castello del Signore. A ragione si sentivano esclusi dalle sue ricchezze, dai suoi nobili agi, dall'arte di corte e dalla compagnia delle cortigiane. Ma oggi chi mai vorrebbe vivere come un quadro superiore stressato, con la voglia di imbottirsi il cranio di sequele di cifre senz'anima, di dare ordine alle segretarie, di bere il suo vino sofisticato e di crepare col suo infarto? Ci escludiamo più che volentieri dal modello dominante. Ustedes, los voraginosos, voraces, insaciables, codiciosos, insatisfactibles, lo que ustedes están haciendo tiene un final determinado ya por ustedes mismos. Todas las civilizaciones han sido consumidas por sus propios mitos. Nei paesi poveri, milioni di persone vivono ai margini dei circuiti dell'economia di mercato. Ogni giorno i giornali riportano la miseria del cosiddetto terzo mondo, una serie deprimente di guerre, carestie, dittature ed epidemie. Tuttavia, non bisogna perdere di vista il fatto che assieme a questa miseria, essenzialmente importata, esiste un'altra realtà, un'intensa vita sociale sostenuta da tradizioni e costumi precapitalisti, al cui confronto le società opulente hanno l'aria moribonda. Ustedes todo lo que tienen es robado, asaltado, expropiado, usurpado, retorcido. In questi paesi il lavoro dell'uomo bianco viene disprezzato perché non finisce mai, a differenza ad esempio di quegli artigiani somali che sperperano i proventi della propria attività in un colpo solo, nella grande festa annuale. I poveri sono molto più ricchi di quanto si dica e di quanto essi stessi non credano. L'incredibile gioia di vivere che colpisce molti osservatori delle periferie africane inganna meno delle deprimenti valutazioni oggettive degli apparati statali che colgono solo la parte occidentalizzata della ricchezza e della povertà. Sì, usiamo le stesse parole e hasta por ahí pareciera che non entendemos. Pero es que las palabras en nuestra boca no significan lo mismo que esas mismas palabras en boca de la lengua invasora, en boca de la civilización invasora, de la cultura de la guerra y de la hipercultura de la mentira. No es lo mismo. Certo, c'è il rischio per un europeo di cadere in un facile esotismo, ma basti ascoltare quel che dicono sull'argomento gli immigrati stessi, quelli che conoscono per esperienza i due mondi, per convincersi del vantaggio che possiede il sud del mondo in fatto di rapporti sociali. Abbiamo molto da imparare e da disimparare dall'Africa e da altre culture non occidentali. Ovviamente non si tratta di scimmiottare pratiche ancestrali, ma casomai, senza alcuna pretesa di starsi ad imitare, di trovarvi una fonte di ispirazione. Claro que sí, estamos tan atrapados como nosotros nos permitamos estar. Si yo no puedo dejar de ir una semana, 2 meses, 6 meses al supermercado, pues obvio que estoy atrapada, atados al capitalismo de una manera fatal que no nos podamos reír. ¿Por qué? No existe autoridad alguna sobre la faz de la madre tierra. No existe poder alguno sobre la faz de la madre tierra. Ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Que el capitalismo es el padre directo de la deuda. Ni bajo el sol, ni dentro de las estrellas, que pueda obligar a alguien a pagar